24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, eccoci cari ascoltatori, finisce la settimana di 24 mattino, sono le 7:21 minuti, saluto la nostra redazione, Diego Rovelli di là nel vetro, saluto Carmelo Lauricella in regia in attesa che ritorni l'Alpino, forse tornerà, chi lo sa, settimana prossima. Può essere con noi. E allora oggi avremo ospite il senatore Enzo Bianco del Partito Democratico per parlare di queste accuse che l'ex tesoriere della Margherita Lusi ha lanciato anche nei suoi confronti di aver preso la paghetta, 5.000 euro al mese, anche per Enzo Bianco che sdegnato ha annunciato querela. Sentiremo cosa ha da dirci, come parleremo di immigrazione e lavoro. Il ministro Cancellieri ha detto quest'anno il decreto flussi forse non si farà perché c'è crisi e quindi non possiamo andare a prendere altri lavoratori dall'estero. Ma è davvero così? Ci sono teorie diverse su questo tema, molto dibattuto e molto interessante. Chi dice invece che servirebbe forza lavoro dall'estero, immigrazione, perché gli italiani non fanno più determinati lavori. Ne parleremo di lavoro e crisi e immigrazione dalle 8:30. Ora andiamo a vedere cosa ci propongono i giornali in edicola. È venerdì 16 maggio, sì, mi fanno 18 maggio anche, poi mi fa notare che se non spengo il microfono magari le parole escono. Vabbè, si è perso edicola, vabbè, il finale. In edicola li trovate i giornali, dove li volete trovare? Al panettiere. I titoli intanto in questo venerdì 18 maggio: rigore e crescita, accordo europeo, così apre il Sole 24 Ore. Per Repubblica, i leader europei insieme, rigore e crescita. Per La Stampa, crisi, l'Europa prende tempo. Questi quotidiani che aprono sulla situazione finanziaria in Europa alla vigilia del vertice del G20 e poi il Consiglio europeo la settimana prossima. Crisi, pressing sulla Merkel anche per il Messaggero. Mentre, cito solo l'apertura del Corriere della Sera, ancora poi vedremo altri titoli, il Corriere apre sull'IMU, mancano 2,5 miliardi alla stima dei sindaci, per cui il governo, secondo loro, dovrà alzare l'aliquota. Una gran bella notizia per il fine settimana. Vedremo altri titoli, ma voglio andare subito alle notizie che mi hanno incuriosito, ce ne sono tante oggi. La prima riguarda le scomparse, non scomparse, ve lo ricordate? Le comunità montane, che fine hanno fatto? Oggi Repubblica fa un'inchiesta, pagina 30 e 31, consulenze e stipendi d'oro le comunità montane sprecano anche se non esistono più. È una beffa l'abolizione, solo il personale costa ancora 300 milioni. Inchiesta di Antonio Fraschilla. Ci sono delle comunità montane che sono state abolite, la comunità delle Murge, il simbolo di come la furia moralizzatrice, la corsa a tagliare gli enti montani si sia trasformata in un grande spreco. Oggi le regioni continuano a spendere 150 milioni di euro per gli stipendi di 4.500 dipendenti, 162 milioni per 7.500 forestali, il tutto per svolgere pochi servizi o nessuno, causa assenza di fondi per investimenti. Il caso limite appunto è quello della comunità delle Murge, dove ci sono, che è stata abolita, di fatto è stata abolita, ma c'è un commissario per l'abolizione e ci sono due dipendenti, per cui si continua a pagare. Ogni giorno timbrano il cartellino, anche se sulla carta l'ente per il quale lavorano non esiste da 3 anni. Tanto è trascorso da quando in Puglia sono state soppresse le comunità montane, ma la comunità appunto delle Murge, che comprendeva il comune tra l'altro di Palagiano a 39 metri sul livello del mare, avete capito bene, la comunità montana a 39 metri sul livello del mare, ebbene ancora un consiglio d'amministrazione cioè non c'è più il consiglio d'amministrazione ma c'è il commissario liquidatore che prende 20.000 euro l'anno, ci sono due dipendenti che timbrano il cartellino. E dove lavorate? Boh, in un ente che non esiste più, però timbrano il cartellino e d'altronde questa è la situazione. Le comunità in liquidazione sono tante quante ce ne sono formalmente ancora, 72 sulle 300 attive nel 2008, ma solo il personale costa 300 milioni, lo spreco delle comunità montane su Repubblica. Poi, cari ascoltatori, dobbiamo concentrarci su Roberto Saviano, perché ci sono vari articoli che oggi riguardano lui dopo la chiusura del programma quello che non ho. Il primo è di Giampiero Rossi, che sul Fatto Quotidiano manda un articolo pubblicato in intera pagina 5. Quante frasi del mio libro. Saviano, perché non mi citi? L'accusa di Giampiero Rossi, autore del testo La lana della salamandra, stampato nel 2008, tra l'altro pubblicato dall'Unità, che allora era diretta da Antonio Padellaro, che oggi è il direttore del Fatto Quotidiano, per questo viene pubblicato sul Fatto Quotidiano. Giampiero Rossi dice: ha citato tantissime parti del mio libro nel suo monologo sui morti della Eternit a Casale Monferrato. Il monologo sull'amianto e le sue somiglianze sono anche tutte pubblicate. Effettivamente ci sono 9 passaggi citati da Saviano e 9 del libro La lana della salamandra, che sono francamente molto molto simili. E Giampiero Rossi dice: quello che ho trovato meno piacevole è una certa mancanza di riconoscimento per chi quel lavoro lo ha realizzato. Tu lo sai bene, Roberto, fare un'inchiesta, una ricostruzione storica, un racconto completo di vicende complicate e enormi come questa comporta tanta pazienza, volontà, tempo, passione. Perché dunque non riconoscere a chi ha investito tanto, almeno la paternità di quel suo lavoro? E se io domani in un mio libro utilizzassi frasi, immagini ed episodi tratti da Gomorra, amalgamandole a un mio scritto senza dire che li ho presi da un tuo lavoro, cosa accadrebbe? Insomma, l'accusa di questo autore Giampiero Rossi è: hai preso spunto dalla lana della salamandra in tanti punti, ma non mi hai neanche citato. A proposito di citazioni, invece, Roberto Saviano non se n'è fatta mancare una. Ieri era uscita una notiziuola di 4 righe sulla quale sono saltati oggi Il Giornale, Libero, Il Foglio. I titoli sono questi: sul Giornale, pagina 14, Saviano il censore vuole distruggere il Corriere del Sud, l'inserto del Corriere del Mezzogiorno allegato al Corriere della Sera, per una versione riferita al monologo, questa volta di Vieni via con me, dell'anno scorso, poi smentita dalla nipote del filosofo Benedetto Croce. Saviano si è sentito diffamato, è una vicenda un po' complessa. Comunque Saviano ha chiesto 4,7 milioni di risarcimento danni appunto al Corriere del Mezzogiorno, al Corriere della Sera. Anche su Libero, Saviano il censore, per Francesco Borgonovo, quello che non ha è il pudore, vuole 4,7 milioni dai giornali. Ha denunciato il Corriere del Mezzogiorno, il vice direttore del TG1 e anche, credo, Libero. Beh, insomma, comunque, anche sul Foglio, la paghetta di Benedetto Croce, il senso per il solido degli angeli, degli indigenti, Saviano e Fazio. Anche in prima pagina del Foglio viene definito così Saviano: un golfinger pauperista di conclamata fede, di accorta gestione contrattuale delle proprie performance moralistiche, buona uscita compresa, chiede i danni a chi ha usato avanzare interpretazioni poco lusinghiere in uno dei suoi predicozzi di prima serata. Offesissimo per una ricostruzione smentita dalla nipote di Croce, per la quale si è sentito diffamato, uno dei due dioscuri della solidarietà televisiva con i diseredati, esodati, terremotati di tutto il mondo, dimostra che non gli basta puntualizzare che il suo intento non era stato quello di parlare di mazzette. Per la macchina del fango che vuole seppellirlo come i Croce a Casamicciola, Roberto Saviano vuole che qualcuno paghi e che qualcun altro lui incassi. Insomma, la vicenda che fa certamente discutere i giornali, la richiesta danni per presunta diffamazione dello scrittore Roberto Saviano nei confronti del Corriere del Mezzogiorno, fino a 4,7 milioni di euro. Questi giornali citano, che ho citato, dicono: ma come, non è lui il predicatore della libertà di stampa, del dovere di parlare, del dovere di dire, della libertà di poter dire, dell'appello anche a Silvio Berlusconi di rispondere sempre alle domande? Lui invece si sente diffamato per una versione contrastante e chiede quasi 4,7 milioni, quasi 5 milioni di danni. Eccoci allora, l'Europa, iniziamo da lì perché gli occhi sono tutti puntati sul vertice che ci sarà a Washington, il G20, in questo weekend, e poi il Consiglio europeo straordinario la prossima settimana, il 23 maggio, per cercare di capire come affrontare le situazioni soprattutto della Grecia, la grande difficoltà Ma anche la Spagna abbiamo sentito con le voci di fuga di capitali, di persone che ritirano anche i soldi dai bancomat. L'Europa punta sul rigore e crescita, pagina 3 del Sole 24 Ore, questo è il vertice in videoconferenza tra Monti, la Merkel, Hollande, Cameron e Van Rompuy. Ieri hanno parlato di questo, tutti i dettagli ci sono appunto sul Sole a pagina 3. Invece, se volete un retroscena, vi segnalo a pagina 3 di Repubblica, Claudio Tito, l'articolo inizia in prima pagina, racconta Claudio Tito che Angela Merkel è disposta a trattare, ecco lei che ha sempre tenuto forte la barra del rigore, e invece a trattare sul tema della crescita. Nessuno di noi può correre il rischio di presentarsi e presentare l'Europa disunita né al prossimo G8 di Camp David né ai prossimi vertici di Bruxelles. Così avrebbe detto Angela Merkel, parlando dunque di tensione alle stelle in questa conference call con anche Mario Monti tra gli altri. E per la prima volta Angela Merkel ha aperto così un piccolo spiraglio di fiducia, dando anche una parola di ottimismo e lasciando una parola di ottimismo anche agli altri interlocutori, Monti, Hollande, sulla possibilità di aprire anche sul tema degli investimenti per la crescita. Ma insomma, sono giorni questi, sia questo weekend sia la prossima settimana, decisivi e importanti per quel che riguarda gli sviluppi futuri di Grecia, Spagna, dell'Europa, dell'Eurozona. Venendo invece in Italia, sempre il tema delle tasse, quello che rimane in primo piano sui giornali, è inevitabile. Ieri Monti è andato a incontrare Attilio Befera ai vertici di Equitalia, ha detto che pagare le tasse è un dovere, e questo è il titolo di pagina 10 del Sole 24 Ore, proprio questo, pagare le tasse è un dovere, ha ribadito Monti. Certo, però, il fisco deve diventare più efficace e meno intrusivo. Sappiamo bene quanto siano acuti i sacrifici richiesti ai cittadini, ma sappiamo anche che senza uno sforzo collettivo a cui tutti devono partecipare in base alle proprie possibilità metteremmo a rischio la nostra economia e la base stessa della convivenza civile. Insomma, belle parole, giuste da sottoscrivere, però il dato poi di fatto concreto è che gli italiani si scontrano con queste tasse, che sembra una pressione fiscale che sembra sempre più alta. E guardate la scoperta di oggi del Corriere della Sera, messa in prima pagina con un articolo di Mario Sensini. Il titolo d'apertura di prima pagina è questo: IMU, mancano 2,5 miliardi. Per la verità le stime dei comuni è da tempo che venivano diffuse e paventate. E cioè il governo ha fatto una previsione dell'IMU, cioè prenderemo dall'IMU tot entro la fine dell'anno, e questo tot è già stato messo a bilancio, ma i sindaci, anche qui di recente Attilio Fontana, il sindaco di Varese, ci aveva detto quelle previsioni secondo noi sono sbagliate, sono al ribasso, in realtà questa stima già messa a bilancio è inferiore rispetto a quello, cioè superiore rispetto a quello che lo Stato pensa di dover incassare, ma siccome è già messa a bilancio lo Stato poi dovrà fare i conti con quella cifra, e se mancano 2,5 miliardi, questa è la stima dei comuni rispetto alla cifra già messa a bilancio, cosa farà secondo noi il governo? Dovrà aumentare l'aliquota dell'IMU. Ecco dunque poi a pagina 3 del Corriere, le aliquote IMU aumenteranno, la seconda rata sarà più cara. Questa è la denuncia dei sindaci che già odiano questa tassa e già manifesteranno il 24 maggio prossimo a Venezia. Secondo i calcoli, scrive Mario Sensini, secondo i calcoli che saranno presentati oggi dall'IFEL, l'istituto di ricerca dell'ANCI, cioè l'associazione dei comuni, le stime di gettito del governo sono esagerate, mancano all'appello almeno 2,2 miliardi di euro. Così per centrare questo obiettivo di bilancio rimane un'unica strada, e cioè aumentare le aliquote dell'IMU. Staremo a vedere se davvero sarà questa la strada e quale sarà la risposta del governo. Per quel che riguarda la politica, trovate le notizie sul tema che fa molto dibattere della corruzione. Sulla corruzione il segretario Alfano del Popolo della Libertà ieri a Porta ha detto attenzione perché qui il governo rischia. Sul tema della corruzione sono tutti schermaglie tecniche che vi voglio evitare per i cavillosi della politica, andatevela a leggere, c'è un bell'articolo a pagina 10 del Corriere della Sera, ci si scontra a botte di emendamenti tra PD, PDL, eccetera. Il problema è che il tema è caldo, è quello della giustizia, tanto che Alfano ha detto la ABC, anch'io l'ho citato tante volte, ABC, Alfano, Bersani, Casini, questa linea ABC non è mai esistita, ma ci eravamo sognati, avevamo visto anche un Casini raggiante che si twittava con le foto, siamo tutti qui riuniti davanti a Monti, noi, l'ABC, Alfano, Bersani, Casini. Invece Alfano prende una secca distanza, non esiste nessuna linea ABC, come dire, nessuna unità, e su questo il governo rischia. Insomma, il tema della giustizia è sempre il tema che fa discutere. E poi la politica sono soldi, lo abbiamo imparato in questi giorni più che mai. L'altro ieri per la verità, ma era tarda sera notte, e quindi gli articoli sono poi resoconti oggi sui giornali, quelli più approfonditi. L'ex tesoriere della Margherita Lusi ha parlato, interrogato, perché rischia l'arresto alla giunta per l'autorizzazione del Senato, e ha parlato e ha coinvolto un po' tutti, davo soldi un po' a tutti, ho dato 70.000 euro a Renzi che è sdegnato, ha detto lo querelo, e fa un'unica intervista al Quotidiano Nazionale, oggi dice ci vuol far passare per ladri di polli, è pure imbarazzante e umiliante dover rispondere alle sue accuse. Ho dato soldi a Rutelli che, chiamato dal Fatto Quotidiano, dice ancora mi chiamate, mo basta, l'ho già detto, è un ladro sbugiardato, è un mentitore, come ve lo devo dire. Insomma, l'ira di Rutelli lo querelo. Avrebbe dato, dice Lusi, ho dato soldi a Enzo Bianco, che sarà nostro ospite alle 8.20, gli davo 5.000 euro al mese e ho dato anche 100.000 euro a una società gestita dal marito della sua segretaria, e Bianco ha detto è una vergogna, lo querelo, non mi farò certo intimidire da uno come Lusi. Insomma, a tirare in ballo la Bindi, Franceschini, il titolo d'apertura del giornale è questo, e il giornale tra l'altro mette questa domanda: com'è possibile che della Lega si sa tutto e si scrive tutto, mentre di questa vicenda si sa un po' poco? Lusi, soldi anche alla Bindi, trema la Margherita, il titolo d'apertura del giornale. Effettivamente si sa molto di più e si scrive molto di più della Lega anche oggi. Altri soldi per Riccardo, uno dei figli di Bossi, nuove accuse a Bossi. Hanno questa fissazione per l'università i Bossi, che è un qualcosa da psicanalizzare, non c'è altra soluzione. Giuseppe Guastella racconta, pagina 13 del Corriere della Sera, l'ultima è che alcune rate dell'università dell'Insubria, ateneo pubblico nel natio suolo padano di Varese, frequentato da Riccardo Bossi, sarebbero state pagate con i conti della Lega, e quindi con i soldi del finanziamento ai partiti. E racconta Guastella che Umberto Bossi, prima di inventarsi la Lega, già festeggiò 3 volte una laurea in medicina che non ha mai raggiunto. Di Renzo Bossi si sa, insomma, che si è dissociato dall'unica laurea che è venuto fuori, che sulla quale appare il suo nome, la fantomatica laurea in economia privata all'università privata albanese a Tirana Crystal. Ora anche le rate per pagare l'università di Riccardo Bossi, questo secondo le accuse. Niente, anche per Repubblica, pagata l'università anche a Riccardo Bossi, c'è questa fissazione per il pezzo di carta della laurea. Nel retroscena di Repubblica di Paolo Berizzi, a pagina 13, inviato a Gemonio, intanto Umberto Bossi viene definito ormai sempre più in lacrime. Raccontano che non l'hanno mai visto così, l'ha chiamato uno dei triumviri della Lega a mezzogiorno, è scoppiato a piangere, distrutto. Non sa più che dire, sto male, malissimo, taglia corto prima di esplodere in un pianto liberatorio. Piange, pensa al ritiro, è distrutto per il senatur day after nel dramma. Questo è l'atteggiamento di Umberto Bossi secondo Repubblica. Dopo le informazioni sul traffico torniamo su tanti nuovi articoli che vogliono scavare nelle pieghe del Vaticano, con un nuovo libro che si preannuncia in uscita di Gianluigi Nuzzi, che sta facendo già tanto scalpore. Tra poco 24 mattino. Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti, cari ascoltatori. Parliamo di politica, lo vogliamo fare con il senatore Enzo Bianco del Partito Democratico, che saluto. Buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora senatore, qui c'è la vicenda dell'ex tesoriere della Margherita, partito di cui lei faceva parte, l'USI, che ha accusato un po' tutti di aver dato soldi anche a lei, fino a 5.000 euro al mese. Come replica? Non è questione di replicare, innanzitutto non è l'USI che ha dato i soldi, ma qui siamo di fronte alla Margherita, Democrazia e Libertà, un partito che svolge attività politiche. I finanziamenti pubblici, se sono destinati ad attività di carattere politico, è esattamente lo scopo per cui sono stati dati. E il fatto che delle iniziative sono state finanziate con soldi della Margherita, iniziative promosse da tutti gli esponenti del Partito Democratico della Margherita, mi pare una cosa assolutamente normale. Quindi sono soldi arrivati, ma in maniera tutta lecita. Per quello che mi riguarda, in modo tra l'altro assolutamente pubblico e trasparente, cioè io avevo dei collaboratori, questi collaboratori, poiché la Margherita andava in liquidazione, sono stati, come si dice in linguaggio ormai compreso da tutti, esodati, e sono stati sostituiti con contratti di collaborazione o con altri tipi di attività, sempre di carattere politico, tutto regolarmente con contratti alla luce del sole e tutto naturalmente transitando per depositi di conto corrente. Cioè senatore, questi soldi venivano dati per pagare dei collaboratori? Per svolgere attività politica, cioè per pagare dei manifesti, per affittare una sede, per pagare dei collaboratori, ed è esattamente la stessa cosa quello che è stato fatto, è stato detto per quanto riguarda tutti gli altri esponenti della Margherita. Se è stata finanziata un'iniziativa promossa da persone vicine a Dario Franceschini o a Rosi Bindi o a Enrico Letta o a diciamo Fioroni o a Gentiloni o a Realacci, insomma evidentemente si tratta di iniziative di carattere politico. C'è qualcuno qui che vuole passare troppo comodamente dal banco dell'accusato, accusato di cose molto gravi, a quello dell'accusatore. Ma infatti una tutti... cosa è finanziare iniziative di carattere politico, una cosa è comprarsi una casa, una cosa è organizzarsi un viaggio, affittarsi un aereo. Quello che avrebbe fatto l'USI. Ma la sensazione è questa, senatore. Secondo voi l'USI sta tirando dentro un po' tutti perché è in una situazione di difficoltà? Ricordo che rischia l'arresto, ovviamente il Senato si dovrà esprimere su questo. Cioè perché la reazione sia sua, sia di Rutelli, sia di Renzi, è un ladro, un mentitore, è solo lui che ha fatto qualcosa di sbagliato. Guarda, è assolutamente pacifico, cioè io sono stato dai magistrati, sono stato sentito come persona naturalmente informata dei fatti, stiamo fornendo ogni collaborazione, abbiamo dato ai magistrati gli elementi per addirittura scoprire non soltanto quello che era stato tolto e scoperto autonomamente dalla Guardia di Finanza, ma anche molti altri elementi. Abbiamo assolutamente piena necessità che si faccia piena luce su ogni aspetto. Vogliamo recuperare queste risorse e voglio già preannunciare che le risorse che recupereremo in larghissima parte saranno destinate nella prossima Assemblea federale a iniziative di carattere pubblico svolte da istituzioni di carattere pubblico, quindi una scelta assolutamente unica. Sì, perché so che il 19 giugno lei... Il 16 giugno ci sarà l'Assemblea federale, della Margherita. In quella sede apriremo la fase di liquidazione della Margherita, renderemo noto pubblicamente a tutti gli italiani come sono state spese sino all'ultimo centesimo le risorse incassate dalla Margherita in questi 10 anni, e io spero che si apra un capitolo nuovo in questa brutta vicenda del finanziamento pubblico dei partiti, dove sicuramente sono stati commessi degli errori molto gravi anche da legislatore. Si parla, senatore, anche di 150.000 euro che sarebbero finiti su una società gestita dal marito della sua segretaria. Guarda, sono assolutamente cose assolutamente prive di senso. Anche qui si tratta di un contratto regolare. A fronte della sostituzione del mio portavoce con una agenzia che presta servizi, regolarmente denunciata in questo, con attività documentabili sino all'ultimo centesimo. Se qualcuno dice il contrario, sono pronto a portarlo in tribunale. Ma l'USI perché mentirebbe, secondo lei? C'è una ragione, lo dicono i magistrati, non è che lo dico io. I magistrati nell'ordinanza di arresto, di richiesta di autorizzazione all'arresto, dicono chiaramente che è in corso un'attività con la quale si vuole distrarre l'attenzione, sollevare polveroni e inquinare le prove. Mi pare evidente, quando uno, come dire, per coprire le sue malefatte, chiama in causa delle persone per bene, che hanno svolto attività politica, anche con finanziamento pubblico, mi pare assolutamente una cosa del tutto evidente. Lo dicono i magistrati. Lo senatore... dice tanto il PM, quanto addirittura il giudice istruttore, con parole assolutamente chiare. Senta, Bianco, tra qualche giorno però il Senato dovrà votare, dopo la Giunta, anche il Senato, sulla richiesta di arresto che pende sulla testa di l'USI. Lei personalmente come voterebbe? Guardi, io naturalmente guarderò le carte e ascolterò la relazione. Io, diciamo, per formazione politica, io vengo dal Partito Repubblicano, un partito assolutamente rigoroso in questo campo. La mia linea è che, tranne che non ci siano degli evidentissimi elementi di quello che si chiama fumus persecutionis, io ho sempre votato per l'arresto, perché sono convinto che i parlamentari sono esattamente cittadini come gli altri, che hanno diritto di difendersi, non possono essere condannati senza processo, ma non è il Senato o la Camera dei Deputati che devono fare il processo lo devono fare i magistrati, ci si difende nel processo, non dal processo. Questa è la mia storia. Beh, quello che lei ci racconta, insomma, mi fa propendere per l'idea che secondo lei non c'è fumus persecutionis. Assolutamente. Quindi, la mia quindi lo prendo come un sì, lo prendo come un sì all'arresto, diciamo, come linea. Diciamo, ripeto, il voto non si può anticipare, certo. Momento, ma non ho il minimo dubbio. Nella mia storia ho sempre votato per l'arresto. In questo caso non ritengo che ci siano gli estremi di un evidente fumus persecutionis che giustificherebbe il contrario. Ancora due domande. I parlamentari sono come gli altri. Ancora due domande, senatore. La prima è questa. Me lo definisca con un aggettivo, secondo lei, Lusi. Incredibile. Siamo al inimmaginabile. Guardi, una persona che suscitava a tutti quanti noi, diciamo, un timore quasi irreverenziale, una persona severissima, rigorosissima, con una storia fatta di volontariato, di cose splendide, un magistrato onorario. Francamente, quando abbiamo scoperto quelle cose siamo rimasti di stucco, di sale, una cosa assolutamente inaccettabile. Mi faccia fare invece un'ultima domanda su una vicenda diversa. L'ultima volta che ci siamo sentiti l'avevamo chiamata perché lei, insieme a tutti i parlamentari siciliani, deputati, 52, molti deputati e senatori, avevate chiesto a Monti di avere un ministro di riferimento. Non un ministro di riferimento, cioè uno che si occupasse. Sì, appunto, perché naturalmente qualcuno ha pensato che ci fosse un ministro della Sicilia. No. Uno che si occupasse, un interlocutore per i problemi della Sicilia. So che Monti vi ha ascoltato, ha individuato il ministro Barca, se non sbaglio. Sì, assolutamente. Ieri ci siamo incontrati. E che gli chiedete a Barca? A Barca chiediamo, in Sicilia come nel resto del paese, naturalmente per molti aspetti, c'è una situazione molto difficile. Vi ricordate quello che è accaduto qualche mese fa con i forconi che hanno messo sotto? E poi c'è stata una cosa molto bella, tutto il mondo produttivo, dalla Confindustria di Ivan Lobello ad Antonello Montante sino ai sindacati, c'è stata a Palermo una grande manifestazione con 7 punti per aiutare lo sviluppo e la crescita della Sicilia. Noi abbiamo incontrato in queste settimane il mondo produttivo siciliano, abbiamo stilato alcuni progetti di interventi e ieri li abbiamo portati a Barca. Gliene dico due soltanto per fare capire a che cosa mi riferisco. Uno, ci sono già decine e decine di opere già appaltate e sostanzialmente cantierabili, di grandissima utilità. Sì. Più dighe che non sono state iniziate e non sono state completate. Abbiamo chiesto di creare una task force per poter rapidamente mettere in opera queste. Un secondo intervento, il settore dei trasporti. La Sicilia è assolutamente marginale rispetto a tutto il resto dell'Italia. I collegamenti ferroviari, per esempio, sono in una condizione accettabile. Non possiamo ritenere che si possa investire in Sicilia solo il 2% infrastrutture. Insomma, questi due elementi. Meno camminatori e più infrastrutture e trasporti. Questa cosa dei dipendenti pubblici che continuano a crescere, la gestione della regione da parte del governo lombardo è inaccettabile. Noi vogliamo investimenti e meno spesa corrente. La ringrazio, buona giornata al senatore Enzo Bianco per essere stato con noi nel Partito Democratico. Noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo. Tra 6 minuti ripartiamo, parliamo di immigrazione, lavoro e crisi. C'è crisi economica, il ministro Cancellieri ha detto quindi il decreto flussi, vale a dire forza lavoro dall'estero, immigrati quest'anno forse non ne potremo avere perché c'è crisi. Mentre gli imprenditori, le realtà produttive e i sindacati dicono ma è davvero così, ci sono molti lavori che gli italiani non vogliono più fare, invece avremmo bisogno proprio di stranieri, di manodopera dall'estero per alcune tipologie di professioni. Che ne pensate? Ne parliamo tra poco, 800 24 00 24. Eccoci qua alle 8:37 minuti, 800 24 0024 per intervenire in diretta, i vostri sms al 349 238 6666. Ne sono già arrivati, parliamo di immigrazione, lavoro, decreto flussi, perché il ministro Cancellieri ha detto c'è crisi in Italia, c'è poco offerto di lavoro e dunque stiamo valutando quest'anno se bloccare il decreto flussi. Ma è davvero così? È davvero così che ci sia crisi, lo sappiamo tutti, ma ci sono molti lavori, molte professioni che gli italiani non fanno più E allora è davvero questa la soluzione? Davvero non c'è necessità in realtà di manodopera dall'estero? Ne vogliamo parlare con un esponente del sindacato, Liliana Ockmin, è già stata nostra ospite, è il segretario del Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani della CISL. Buongiorno e ben ritrovata. Eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi. Saluto anche Mario Cortella. Mario Cortella è un imprenditore responsabile di immigrazione della Camera Commercio di Padova. Buongiorno Cortella e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Allora, la prima domanda è questa. Ockmin, è davvero così? Cioè non c'è bisogno di manodopera dall'estero? C'è crisi? C'è poca offerta economica e quindi bisogna reagire bloccando il decreto flussi magari per un anno? Allora, i nostri dubbi sullo stop ovviamente al decreto flussi ci fa riflettere su un tema più ampio. Io credo che qua bisogna sfatare due tendenze, due luoghi comuni. Da un canto che ci sono attività lavorative che sono preposte per gli italiani e attività lavorative preposte per gli immigrati. Credo che prima riusciamo a sbarricare questa frontiera e aiutiamo anche ad affrontare altri aspetti del mercato del lavoro e della disoccupazione. Però non è un po', non è un po' così in realtà, cioè in maniera naturale il mercato del lavoro si è orientato così. Lo è tuttora, però questo non significa tener conto che il problema, il bando della matassa ovviamente dovrebbe essere un valore sociale del lavoro, un lavoro più tutelato sicuramente anche con maggiore possibilità di mobilità sociale. Oggi abbiamo una grande crisi economica che si è travasata anche sul mercato del lavoro, quindi la difficoltà dei disoccupati, noi abbiamo i migranti che sono espulsi dal mercato lavoro. Bloccare i flussi parzialmente risolve il problema, perché un altro anello debole della nostra economia, dell'evasione fiscale, grande tema di grande attualità, è ovviamente alimentato dei flussi di ingressi irregolari, che non è soltanto attraverso la irregolarità che appunto alimentata dai nuovi ingressi di un grande turnover, è anche alimentata dell'impossibilità degli immigrati di poter oggi, alla luce della crisi, poter mantenere la propria regolarità. Sì, è disatteso la disoccupazione, sei mesi, le politiche attive di lavoro poco rispondono ai nostri over 50, poco rispondono ai nostri giovani che dalla formazione al lavoro non riescono a trovare lavoro. È ovvio che per gli immigrati non succede diversamente. No, ma questo sicuramente dobbiamo saper rispondere. Su questo sicuramente ci sono molti immigrati, che questo è un altro tema, che sono in Italia da anni, che hanno perso il posto di lavoro per via di questa crisi, ma è proprio anche a tutela di questi immigrati che qualcuno ha avanzato la teoria a dire perché farne entrare altri, appunto. Prima magari diamo lavoro e diamo una risposta a questi. Chiaro, sicuramente noi abbiamo sostenuto fortemente che oggi, alla luce anche di una possibilità formalmente tangibile con la direttiva 52 che inasprirà le sanzioni per l'utilizzo della manodopera illegale, c'è la possibilità di aprire, le possibilità di emergere, di far emergere ai lavori a questi lavoratori che prima erano regolari e che oggi sono divenuti irregolari e che alimentano appunto il mercato non formale, diciamo il lavoro irregolare. Però ovviamente bloccare il decreto flussi ci fa sicuramente pensare che l'intenzione è di poter probabilmente sopperire e raccogliere anche l'espulsione di questi lavoratori del mercato del lavoro, in qualche modo trovare una soluzione anche di riqualificazione, ricollocazione, riemergere delle irregolarità. Però è parziale, non si risolve così il problema. C'è bisogno di poter intervenire fortemente anche per poter creare le condizioni appunto di valorizzazione del capitale umano che loro rappresentano, ma questo vale anche per i nostri giovani, insomma. Io credo che non possiamo continuare a far pensare, a continuare a alimentare questi due binari dei lavori che sono per gli uni e i lavori che sono per gli altri. E il paese cresce, se cresce appunto anche la possibilità di innovazione, di ricerca, se le aziende smettono di usare solo manovalanza e investono sempre più in innovazione, e così ci rendiamo competitivi. No, però è interessante questo punto di partenza, cioè non usciamo da questo dualismo del mercato per cui ci sono lavori per gli italiani e lavori per gli stranieri. Però guardi, io vorrei coinvolgere su questo Mario Cortella, come detto è responsabile immigrazione della Camera Commercio di Padova. Dunque siamo nel nord-est, una regione e una zona territoriale che sta subendo la crisi, la vede tutti i giorni. Lei Cortella è anche un imprenditore e molti messaggi che ci arrivano sono in realtà di questo tenore. Io per esempio, ci scrive un ascoltatore, a un'agenzia di pulizie, se non ci fossero gli stranieri, gli italiani non farebbero mai questo tipo di lavoro. Per cui, che ne pensa di quello che dice Liliana Hochman, cioè non distinguiamo lavoratori per gli uni e per gli altri? Di fatto è così o è un approccio sbagliato? Ma intanto io sono assolutamente contrario al fatto di precludere l'accesso a persone che vengono da fuori in un mercato dove ancora c'è bisogno. È chiaro che la crisi ci fa riflettere, allora io ricordo che quando ci siamo interessati all'inizio del progetto immigrazione, il problema era dirompente, nel senso che c'era un bisogno enorme di assumere persone che nelle nostre aziende andavano occupate immediatamente, e quindi siamo partiti con un programma e un progetto che allora ha avuto grande successo, che era quello di fare formazione inizialmente a queste persone che andavano inserite all'interno delle nostre imprese. Io posso citare degli esempi che ho vissuto personalmente nella mia impresa, che ha assunto, parlo di 10-12 anni fa, quando c'era il boom economico nella nostra realtà. Abbiamo assunto ragazzi tunisini piuttosto che albanesi, piuttosto che moldavi, sì, eccetera, eccetera. Questi ragazzi, alcuni sono andati molto bene, hanno seguito un corso di formazione attraverso Confindustria Padova e attraverso anche la sponsorizzazione della Camera di Commercio. Questi ragazzi hanno fatto corsi di formazione e si sono inseriti da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche professionale, in maniera eccellente. Però l'aspetto di chi dice ci sono dei lavori che effettivamente gli italiani non fanno più e per questo dobbiamo guardare e ci salvano gli immigrati, lo so che è messa giù brutalmente, ma è quello che no, ma è una realtà, è una realtà. Allora È il fatto che noi, anche da un punto di vista formativo nostro interno, dei nostri ragazzi, continuiamo a spingere ad oltranza la laurea breve piuttosto che una laurea in che ne so, psicologia, cioè sono indubbiamente servono anche queste, però non abbiamo mai pensato che alcuni dei nostri figli potrebbero inserirsi tranquillamente nel mondo dell'artigianato e dell'artigianato di livello. Che lavori mancano, per esempio? Cosa non fanno più i nostri giovani? Ma per esempio nella mia azienda io non riesco a trovare dei saldatori. Oggi saldare intanto presuppone che ci sia un corso di formazione a monte. È cosa che in questo momento fai fatica a trovare. Però poi alla fine un nostro ragazzo che abbia quantomeno un diploma, piuttosto che una laurea breve, ma quando mai andrà a fare il saldatore? E questo è uno dei temi che io dibatto anche nell'ambito dell'Università di Padova, dove queste discussioni le facciamo. No, ma infatti, ma tra l'altro su questo c'è anche un conflitto, se vuoi. Il ministro Cancellieri ha detto il decreto flussi col ministro Fornero, vedremo se farlo, e c'è una previsione nei prossimi 10 anni, sempre del Ministero del Lavoro, dunque il ministro Fornero, che serviranno 1.800.000 di forza lavoro dall'estero per cercare di sopperire anche a quelle professioni, lei ci ha citato il saldatore, che gli italiani non fanno più, è un dato di fatto. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Sentiamo Stefano da Roma che ci ha chiamato. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Dunque, secondo me il problema, come diceva il signore che mi ha preceduto, adesso mi sfugge il nome. Sì, Mario Cortella, della Camera di Commercio di Padova. Esatto, dunque io sono un medico ospedaliero, però da giovane mi ricordo che per arrotondare i miseri soldi che potevano darmi i miei genitori, ho fatto anche il saldatore, cioè sì, quella professione che Cortella dice manca. Esatto, ho conosciuto quella realtà per poco tempo, per pagarmi le vacanze. Allora, i giovani d'oggi questa realtà non la conoscono, perché sono giovani che sono in oversight, cioè sono drogati da un tipo di vita che non corrisponde alla realtà. E poi c'è un altro problema, che spesso queste professioni di serie C, come il manovale, il badante, cioè fanno parte di un mondo però nero. Lei dice subito di serie C, perché se lei già la qualifica come una professione di serie C, capisce che anche lei entra in questo gioco vizioso, per cui è una professione di serie C, è una professione dignitosa come tutte. In ogni caso, Stefano, la ringrazio, lei la pone su una lettura anche sociologica, se vogliamo, i nostri giovani un po' viziati evidentemente. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, a mio avviso non è vero che gli italiani non vogliono fare determinati lavori. Gli italiani, siccome sanno che hanno l'onere di pagare determinate tasse e tante, sì, con questi imprenditori che a volte gli dicono guarda se vuoi ti posso dare metà di stipendio in nero, metà te le metto in busta paga, l'immigrato accetta perché prende quello che arriva. Perché l'immigrato a volte si sa, io ne conosco tanti, ho amici immigrati, sì. E mi dicono che loro il bollo alto non lo pagano, il canone Rai non lo pagano, cioè io dico siamo tutti italiani. Però Antonio, discutiamo sul piano della legalità, i casi di illegalità escono un po' dal nostro discorso, secondo lei perché ne fa una questione di illegalità? Cioè mettiamola su un piano di legalità, cioè se è tutto normale, per cui tutti pagano le tasse, i contratti sono regolari, secondo lei non c'è questa cosa per cui gli italiani non fanno dei lavori? Ma non è vero, no. Perché oggi con la penuria di lavoro che c'è, gli italiani accettano tutto, guardi, da tutti i disparati lavori che ci sono. Ma sa, uno il saldatore, come ci ha detto giustamente Mario Cortella, non è che si improvvisa se non ha avuto un corso di formazione. In ogni caso io vorrei tornare un attimo da Liliana Hochmin. Hochmin, non faccio mistero perché la sua storia è stata anche raccontata. Liliana Hochmin, che sentite, parla uno straordinario italiano, ma è originaria del Perù. Lei è venuta in Italia, è stata anche per un certo periodo immigrata irregolare, no? Allora, è un problema diffuso quello della irregolarità legata alla mancanza di lavoro. Cioè, si può conteggiare quanti sono gli immigrati che da questa crisi potrebbero aver perso il posto di lavoro e rischiano di trovarsi in una situazione di irregolarità? Beh, le proiezioni sono chiare, l'espulsione nell'anno scorso ha rappresentato più di 400.000 lavoratori che da regolari sono diventati irregolari perché hanno perso, avendo soltanto 6 mesi, perché le leggi prevedono questo, 6 mesi di disoccupazione, dopodiché ecco, lo Stato lo ritiene che questo straniero è rientrato al proprio paese, ma sappiamo, e questo le proiezioni anche dell'incremento della presenza irregolare e il decremento della presenza regolare dei lavoratori sul territorio evidenziano che c'è comunque un'espulsione reale che è legata alla burocrazia. Allora io vorrei spiegarmi, però quando all'inizio dicevamo la difficoltà del decreto flussi in questi anni, e se il ministro Cancellieri oggi dice blocchiamo i decreto flussi e lo fa con l'intenzione di poter trovare strumenti anche di risanare la situazione di chi la regolarità l'ha persa, ben venga, ma insieme a questo vanno affinati strumenti. La necessità nel mercato del lavoro, di professionalità, di occupazione, di alcuni mestieri, di alcune attività da parte degli stranieri, anche perché c'è una crescita, come dire, generazionale mancata, sarà necessaria. L'immigrazione sarà un banco di prova per l'Italia, inevitabile. Sì. È chiaro che però non possiamo, come dire, adagiarci e dire va bene, intanto questo problema della difficoltà sociale, dell'adattamento anche del valore sociale di alcuni mestieri, che i giovani, che i meno giovani possono farli, è un altro tema, è un altro problema, di cui non può essere risolto con la presenza degli stranieri, perché sennò può scatenare alcune logiche che non vanno nella direzione di una società coesa, di una giustizia sociale, sì, della mobilità sociale. Però lei dice se serve bloccare il decreto flussi per sistemare anche tutti quegli immigrati che hanno perso il posto di lavoro, può essere un'iniziativa funzionale a quella. Si trovi però agganciato a una necessità di poter trovare una soluzione immediata, perché poi i lavori continuano a perdere. E di un altro canto affina l'istrumento, perché l'ipocrisia dei decreto flussi, e questo bisogna dirlo chiaramente, noi lo abbiamo denunciato più volte, di far finta di chiamare nominativamente attraverso un contratto, perché spesso, non dico tutti, perché gli onesti imprenditori ci sono in Italia sicuramente, ma c'è chi utilizza anche il decreto flussi e ha utilizzato in questi anni per poter risolvere. Personalmente lei diceva la mia storia. Sì, ahimè, anch'io che ero entrata irregolare, quando poi mi è stato fatto un contratto nominativo, io ho dovuto far finta di non essere mai stata, di arrivare dal Perù, certo. Questo non può essere un meccanismo d'ingresso. L'Italia deve pensare che l'immigrazione è una politica attenta che governa il fenomeno dell'immigrazione, garantisce non soltanto percorsi di inserimento, di integrazione, del rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori immigrati, ma soprattutto protegge anche queste sacche di pregiudizio e di problemi che non è vero che non hanno una certa rilevanza sui giovani e sulla cultura, che dice va bene, allora io devo studiare. A proposito di queste sacche di pregiudizio, mi lascia tornare un attimo da Mario Cortella. Cortella, io ho letto una sua dichiarazione ieri su Repubblica, credo, e lei ha detto qui nel nord-est, nel Veneto produttivo, si vede gli immigrati, alcuni sono visti con sospetto, è così? No, non ho detto esattamente questo. Allora, adesso in un momento di grande difficoltà è evidente che si sta scatenando, anche io, tra virgolette scatenando, un problema sociale, perché è evidente che dovremmo teoricamente noi imprenditori dare privilegio agli autoctoni piuttosto che a coloro che vengono da fuori. Ecco, questo è il tema che secondo me io l'ho affrontato molto serenamente, questo, e ho visto che in effetti c'è un po' di attenzione al fatto che se si deve mettere in mobilità piuttosto che licenziare qualcuno, quelli che vivono la realtà locale dicono meglio che vada via. No, su questo io vi ringrazio, mi devo fermare. Liliana Ockmin della CISL e Mario Cortella, responsabile immigrazione della Camera di Commercio di Padova e imprenditore. Ci sentiamo, c'è solo tempo di dire questo, lunedì mattina. Verde Dentro, nuova elettricità per il tuo lavoro. Repower, l'energia che ti serve. Vi ha presentato 24 Mattino.